Che v'è di nuovo in tutto questo, o me, o vita? Risposta. Che tu sei da me, che la vita esiste, e l'identità, che il potente.